In questa serata di mercoledì 26 maggio abbiamo un ospite davvero speciale. Lui arriva da Verona e ci è venuto a trovare Massimo Bubola. Buonasera Massimo. Buonasera a tutti. Allora, fatto buon viaggio innanzitutto? Sì, non è così lungo. Non è così lungo, certo, anche perché da Verona a Padova, no, voglio dire, in un'ora e 10. Lavoro in corso, sì, sì. Sì, certo, qualche rallentamento in autostrada si è trovato. Benissimo, allora Massimo, noi siamo qui per presentare questa sera anche quello che è il tuo ultimo lavoro, quindi sì. Segreti Trasparenti, che vedremo anche di conoscere sia con l'ausilio del disco e poi anche con quelli che sono gli strumenti che hai portato assieme a... al violinista questa sera, quindi sei sia una bella chitarra che un violino. Sì, allora questo è un disco molto importante, penso, per Massimo. Adesso lui è qui, quindi sì, nessuno meglio di lui può spiegarcelo. Sì. Io ho notato, ascoltando il disco e avendolo, diciamo, per le mani, due cose in particolare che mi hanno dato l'impressione di una cura fuori dal comune nella realizzazione. La prima è l'incisione con una nuova tecnologia che adesso è un po' difficile da spiegare cos'è radiofonicamente, comunque un super audio CD per farla breve, sì, e che in Italia non avevo ancora visto da nessuno. L'altra cosa che è, diciamo, l'altra faccia della tua musica, cioè la parte musicale vera e propria, è quella letteraria, ovvero sia la presenza nel libretto delle traduzioni in inglese dei testi. Anche questo, per quello che mi ricordo io, deve essere la prima volta in Italia. Sì. Quindi queste due cose evidentemente ti hanno portato a un lavoro supplementare, una, sì, fatica in più, però hai voluto lo stesso che fossero in questo, sì, disco. È un'apertura anche ai mercati stranieri? Sì, credo che uno dei doveri che abbiamo noi cattolici sia quello di dare il meglio di noi stessi, di essere molto correnti e di cercare di santificare il nostro lavoro sempre. E questo è un rapporto con gli altri che va in qualche modo avvalorato sempre, dare il meglio di noi. Questo era quando mio padre gli dissi che volevo fare il cantatore, mi disse: cerca di farlo veramente bene, è l'unico modo che poi ti posso dare il permesso di fare questo lavoro. Se lo devo fare il notaio a Padova, seguo uno zio. Ah, che non è male come lavoro. Via Zabarella, sì, ah, ero destinato al suo studio, insomma, notaio a Piovani. Mia madre è di Padova, di Albignasio. Ho 200 cugini qui, insomma, quindi... tra Salboro, insomma, Volta Barozza, eccetera. Sei a casa, insomma. Sì, sì. Poi una zia, una nonna anche di Montagnana, paterna. Ma credo che sia un modo di rapportarsi con la gente. Poi alla fine uno si chiede cos'è, insomma, essere, applicare, insomma, la lettera, insomma, un'educazione ricevuta, che è quella di cercare di considerare gli altri non un portafoglio da svuotare, un mercato, no, da ingannare, ma il prossimo, noi, diciamo, noi cristiani. Per gli altri magari sono dei compagni o è la gente o il popolo, per noi è il prossimo. E non devo mai perdere di vista questa cultura, cioè di cercare di dare agli altri dei contenuti e il meglio che possiamo dare. Poi non è detto che sia eccellente sempre, però è un tentativo che va apprezzato, spero. Sì, io pensavo anche, diciamo, su un lato più pratico, e anche una possibile risposta al problema della masterizzazione casalinga, della coppia. Chiaramente sì, l'oggetto può essere simile, ma nel caso del tuo disco le differenze sono sicuramente maggiori, nel senso che uno ha veramente una brutta copia rispetto a quello, sì, no, che invece, cioè, ho in mano adesso. Il Super Audio, per dirlo in breve, no, è un disco che ha due strati, no? Il primo è il CD normale che si può leggere, il secondo è il CD Super Audio. Chi ha il DVD a casa, chi ascolta i film o che ha la possibilità di avere un 5+1, ha un secondo strato che il laser legge in maniera obliqua, quindi legge un secondo strato e ha la possibilità di sentire la musica in 5 casse più una, che è quella della voce, che poi è gestibile. E cioè, nessuno me l'ha chiesto, però noi l'abbiamo fatto per dare una possibilità in più di ascolto. Poi come indipendenti è stato un segnale anche importante verso le major, dire che possiamo fare un disco di maggior qualità che costa meno. E più in digipack, nessuno lo sa, ma quello che ti dice, il cartone costa il doppio della plastica a farlo. Sì, questo non ce l'hanno detto altri musicisti. Costano molto di più a noi, ma che vendiamo a un prezzo inferiore. E questo è un segnale. Dobbiamo ricordare che tu hai un'etichetta, si chiama Like Music, sì. Qui facciamo questo tipo di politica, l'abbiamo fatta già con Maieronco. Esattamente. Con Salvadie e con gli altri. Dimostriamo che si possono fare dei dischi con più qualità, di suono, di copertina, di tutto, e venderli a un prezzo inferiore. Questa è una risposta politica, vera. al di là del fumo, delle chiacchiere. Sì, beh, un sasso nello stagno, diciamo. Sì, poi sui testi si può discutere, insomma, anche noi curiamo i testi, curiamo le musiche, curiamo i suoni, i messaggi, sono un disco mixato in un anno questo. E quindi questo è un lavoro che va fatto per dare appunto alle persone, al prossimo, il meglio che possiamo dare. Certo. Giunge dopo 4 anni dal disco precedente questo, sì, in realtà sono 5. 5. Beh, in questi 5 anni ho provato a ricostruire il mio repertorio, no? Perché io ho cambiato 5 major e quindi non riuscivo più a recuperare il mio repertorio. Ho dovuto riunirlo in un progetto live che si chiama Cavaliere Elettrico. Certo. Ho costruito 3 volumi e il quarto, se Dio vuole, uscirà quest'anno. Ce li ho qua, te li faccio vedere, ce li abbiamo come grande cimelio, voglio dire, per la nostra radio. Poi magari ce li firmerai. Benissimo, allora io direi di cominciare a presentare quello che è il tuo nuovo lavoro, Segreti Trasparenti, partendo proprio da quella che è la traccia numero 1 del disco, che si intitola La Sposa del Diavolo. Bene. Amore, ti ho cercata così a lungo, ho viaggiato i 7 mari, i 4 angoli del mondo. Potevo sposare la figlia di un re, ma l'ho lasciata pensando a lasciata, allora sei da biasimare, inconsolata, starà lì ad aspettare. Io invece ho un marito, fa il muratore, per niente al mondo spezzerei. Muratore, sali sulla nave del tuo ritrovato amore. Ti porterò dove c'è sempre il sole, laggiù in Italia, dove nascono le rose. Ho 2 bambini che non sanno camminare, dovrò baciarli fino a farli addormentare. Poi uscirò con il primo chiaro e salirò sopra il tuo veliero. Navigammo 100 giorni e poi 4 settimane. Il nostro amore era un tuono, una tempesta senza fine. Oro e diamanti dalla testa ai piedi. Sei marinai pronti a quel che chiedi. Piangi amore mio, perché piangi dolce sposa? Piangi tuo marito o piangi forse la tua casa? Piango i miei bambini, mi mancano, che mi chiamano. Sono quelle bianche come neve. Sono il paradiso che non potremo mai vedere. Che isole sono quelle nere di carbone. Sono l'inferno dove andremo insieme. Così il veliero cominciò a vacillare, come se un mostro lo tirasse in fondo al mare. Tre volte girò nel golgo scuro, tre volte girò, poi sparì. Rock Wave, l'onda del rock. Ed eccoci qua su Rock Wave, ci siamo ascoltati il primo pezzo tratto dall'ultimo lavoro di Massimo Bubola, Segreti Trasparenti, dal titolo La Sposa del Diavolo. Massimo Bubola che abbiamo qui in studio con noi all'interno di Rock Wave nella versione speciale del mercoledì sera. Inizio strepitoso della Sposa del Diavolo. Innanzitutto è una cosa traditional, mi pare di aver letto, tu hai detto, si sente in ogni porto questo pezzo. È vero? Sì, è una canzone del 300 di origine scozzese, no? Però è senz'altro una canzone di mare, perché non faceva altro che stigmatizzare un fenomeno che era frequente, no? Cioè di queste giovani spose che venivano attratte dai marinai, che facevano una vita stanziale. In realtà sarebbe la moglie del carpentiere, no? Che erano quelli che andavano a riparare le navi. Io ho messo un muratore perché oggi i carpentieri la capiscono in 3 su 1000, no? Esatto, esatto. Un termine un po' desueto. E quindi ho preso questa storia e lei senz'altro era attratta dall'avventura, no? E dall'avventura è anche dal direi in senso metaforico dall'infedeltà, certo. No? Quindi è una canzone senz'altro un po' moralistica e didascalica, nel senso che alla fine fanno una brutta fine, vengono tirati nel famoso gorgo scuro e tre volte girò, che ricorda immagini dantesche, no? Sì. Quindi senz'altro la Chiesa voleva stigmatizzare, voleva in qualche modo ridurre questo fenomeno di queste fughe, no? Di spose, di stanziali, quindi di gente che viveva nei porti, che scappavano con i marinai. Però la canzone in sé introduce degli elementi che poi sono stati un po' rivisitati da tantissimi nel tempo. Anche Dylan ha fatto una versione, anche Natalie Merchant di recente, ma proprio siamo anche a Kurt Vile, insomma, le canzoni del porto. Primo Dylan, vero Massimo? Il primo Dylan, sì, perché lui in qualche modo rivisitava il repertorio folk tradizionale americano che comunque era di origine europea, quindi inglese, irlandese, e quindi questa è una ballata che ha avuto molte riscritture. Abbiamo studiato un libro con il professor Gazic di queste riscritture e in effetti ci sono molte versioni, no? Lei ha 3 figli, ne ha 2, non torna, torna, lui... Ma è un po', come dire, è una canzone un po' un apologo su quello che è l'infedeltà, secondo me. A me ha ricordato come atmosfere, forse anche per la presenza della voce femminile, Murder Ballads di Nick Cave, sì. Che peraltro avevano un'ispirazione tutto sommato abbastanza simile, ovvero sì. una tradizione prima orale e poi musicale, sì. Di storie inevitabilmente con sì. finale tragico. E penso che sia un po' come il discorso di Vangeli Apocrifi, no? Ci sono... delle storie accreditate, no? Delle storie non accreditate, no? Penso che nel caso di delle ballate, no? La gente ha fatto una selezione naturale, non è stato un DJ, non è stato una radio, non è stato un giornale a dire quelle erano, come le barzellette, no? Quelle che sopravvivono sono quelle che fanno ridere di più, no? Quindi le grandi sì. ballate sono quelle che toccano comunque tematiche che riguardano l'immaginario collettivo, no? Quindi le ballate sopravvissute sono quelle che veramente hanno un senso profondo nel nostro cuore. Questa è una storia classica, direi. Per passarmi una battuta, ci si potrebbe fare anche la ballata del carabiniere, allora, visto che si sposa bene tra ballata e barzelletta, allora, quelle che non vanno mai. Vabbè, ma non ha riso nessuno. No, no, è vero. Non la passiamo. No, non la passate, benissimo. No. Anzi, allora, direi che per far dimenticare i nostri ascoltatori questa tua tragica uscita sia il caso di lasciare la voce, la parola alla musica. E senz'altro sì, possono, allora. È un repertorio sterminato. No, c'è gelato sta cosa. Cioè, il carabiniere con le storie scozzesi antiche. È un po' dura, in effetti. Sì, sì. Allora, dove sono Blasi, c'è il carabiniere. Siamo già due. Non infieriamo. No, una cosa voglio chiedere. L'arrangiamento che hai fatto col violino è stato meraviglioso. Mi puoi un po' spiegare com'è nata l'idea di questo arrangiamento col violino, Michele? Beh, c'è cioè un violino, ci sono sì, vari più cose, violini, esattamente. Un pianoforte e così c'è via. Una viola anche, sì. Viole, insomma, l'idea è nata con Massimo, più che altro per dare l'idea di questo incedere ossessivo e fatale, insomma, si capisce già che la giovane donna, insomma, è condannata fin dall'inizio, no? Certo. E volevamo, insomma, segnalare questo anche con il discorso poi musicale. Il gorgo sta già appunto chiudendosi dal primo riff musicale, insomma. Come dicevo io prima, appunto, la fine è inevitabile perché tutto porta verso quello, quella conclusione. Allora, se ci fate il piacere di suonare qualcosa, abbiamo qui sì. il violino di Michele, è una bellissima Martin di 28, classico. La chitarra del folk. Sì. Suonare Emmy Lou, forse, che è un'altra storia di una donna perduta. Sì. Neve sporca dentro il cortile, fango sul mio povero nome, mentre dietro si chiude la porta della triste vecchia prigione. Avevo una moglie bellissima, il suo nome era Emmy Lou. Avevo una moglie dolcissima, perché l'ho uccisa, non ricordo più. Ci sposammo il 15 marzo, lungo un viale di tigli e mimosi. La sua luce oscurava i miei occhi, la sua voce addolciva il mio cuore. Per 3 anni la vita fu semplice, un bambino, il lavoro, la casa. Le stagioni scorrevano docili, annodate da un filo di lana. È per me difficile, signori, comprendere il perché. Chiedo agli uomini perdono e a Dio pietà di me. Un giorno il diavolo bussò alla mia porta, sotto le vesti di uno studente. Suonava il piano, era così divertente, gli chiedemmo di fermarsi un po' qui. E fu così che da piccoli accordi la loro intesa salì fino al confine di tutti i rimorsi. Io mi trovavo a passare di lì. Abbracciati come edera e quercia, distesi sulla riva del fiume, di l'erba macchiarsi di rosso, i loro corpi coprirsi di piume, le misi due rose sul petto, una bianca, una rosso carminio, le misi due perle all'orecchio e le scarpe color ciclamino. È per me difficile, signori, comprendere il perché. Chiedo agli uomini perdono e a Dio pietà di me. Conosco il coltello e senz'altro di mia proprietà. Avevo una moglie bellissima, il suo nome era Emilu. Avevo una moglie dolcissima, perché l'ho uccisa non ricordo più. Questa era la canzone Emilou, un brano che risale al 1999 con quello che era l'album Diavoli e Farfalle. Sì, bellissima versione. Adesso stavo ripensando appunto al nuovo disco, Segreti Trasparenti. Io l'ho trovato un disco più vicino al folk, dopo alcuni dischi in cui avevi delle sonorità anche sul rock blues abbastanza viscerale, se vogliamo, sì, molto elettrici. E questo trovo un ravvicinamento invece alle radici anche europee, direi, sì, più che americane. Non so, sì, se ho afferrato lo spirito, sì, sì, il concetto. No, io contesto un po' il fatto che il rock sia americano ormai, nel senso che dopo 50 anni appartiene alla nostra cultura. Come dire, il romanticismo, sì, è nato in Germania, ma dopo 40 anni era francese, era russo. Insomma, credo che quando una moda culturale, no, parte, no, da un paese, no, attecchisce in altri, penso che poi appartenga a tutti i paesi che in qualche modo lo acquisiscono, no? Parlare di rock come di una musica solo americana, come dire che i frigoriferi sono solo americani, i blues sono solo americani, il cinema è solo americano perché in effetti è nato in America. Oggi è improprio dirlo, il rock è una musica che appartiene a tutto l'Occidente. Sì, beh, su questo sono d'accordo. Io penso che ho fatto dischi più elettrici, alcuni meno elettrici, però... Io quando penso al rock penso a una grande struttura con delle sottofamiglie, con dei sottogruppi come l'insiemistica, no? Ah, quindi tieni il folk, il blues, cioè il folk rock, il rock blues, il Tex-Mex, il bluegrass, sono tanti sottogeneri. Credo che anche molta musica nostra, insomma, popolare sia assimilabile a questa, no? Visto molto in Irlanda negli anni 70, loro che... qualche modo hanno inventato il rock, perché una delle tre componenti è irlandese, una inglese e una nera, no? L'hanno in qualche modo rifecondato con la loro musica popolare negli anni 80, con questa coscienza profonda, e sono riusciti a diventare un paese leader nella musica. Credo che ormai il rock appartiene alla nostra cultura, anche se noi abbiamo comunque un'ottica occidentale, no? Anche Wim Wenders è un regista europeo, ha fatto solamente film sull'America, sul mito americano, anche sì. Sergio Leone, voglio dire, no? Però il suo gusto è comunque italiano, europeo, e anch'io sono così. I miei no, colleghi americani dicono che noi facciamo del rock italiano. Ah, questo è molto interessante. Sì, sì. Lo sentono loro, cioè, definiscono proprio rock italiano. Sì, ma se un giapponese fa gli spaghetti alla napoletana comunque sentono che sono cinesi, insomma. Certo. Immagino di sì. No, in senso negativo dico, sì, cioè nel senso che un americano sente che non è il loro rock. Io sto il blues ci appartiene, io penso a quel pezzo blues di De André, insomma, dei primi tempi, che era Marcon di Rondero, no? Mm. Cioè era un pezzo che si può richiamare un po' forse più insomma lo spiritual, ecco, più, ma era un modo di, una chiave nostra di vedere queste cose. Io mi sento molto, molto veneto innanzitutto, no? Poi molto italiano e poi molto europeo e poi magari anche occidentale, perché no? Hai detto che ti senti molto veneto. Un'altra cosa che a cui pensavo è che in Italia, anche il discorso che dicevamo prima, rock, blues, folk rock, chiaramente è necessario creare delle classificazioni per farsi capire. Lo stesso in Italia accade per le scuole cosiddette dei cantautori, c'è la scuola romana, la scuola napoletana, quella genovese. Sì, sì. Non esiste una scuola veneta, tu sei una specie di lupo solitario. Questo secondo te è stato uno svantaggio anche per la tua carriera, cioè essere un po' fuori? Sì, sì, quello senz'altro. Noi siamo una realtà comunque tagliata fuori a livello nazionale. So che i grossi mezzi di comunicazione sono senz'altro romani e milanesi, no? Poi Bologna hanno il suo indotto, perché comunque c'è Dalla, c'è Morandi, comunque loro hanno poi Bibi Ballandi che è un dei produttori televisivo, no? Sì. Fa le cose di Fiorello, per intenderci, Panarello. Certo. Quindi al potere adesso. Crea comunque un'induzione, insomma. I genovesi in qualche modo poi sono affiliati a Milano. Noi veneti siamo sempre stati guardati con una sorta di, non dico di sospetto, ma un po' di puzza al naso dai romani, insomma, cioè, questo è un po' dei coglioni, scusate il termine. quindi se tu guardi anche come veniamo trattati noi della stampa nazionale romana, in genere pochissimo, non parlo solo di me. E i milanesi ci considerano un po' i famosi terroni del nord, no? Come quando io andavo a Milano 30 anni fa, quindi un po' delle persone così. È vero che esiste un po' questa sorta di pregiudizi, no? Il cinema neorealista trattava i veneti, erano sempre servetti, ubriaconi, carabinieri, imbecilli, no? Quindi noi siamo un paese che in qualche modo dà molto economicamente, viene molto spremuto, insomma, no? In tutti i sensi, però non abbiamo una sorta di visibilità, anche perché siamo l'unica regione del nord Italia che non ha un giornale nazionale, questo è giusto pensarci. Perché la Lombardia comunque ha il Corriere, il Piemonte ha la Stampa, la Liguria insomma adesso il secolo XIX che è affiliato a Repubblica, il Resto del Carlino c'è l'Emilia, e Romagna c'è il Resto del Carlino, che è comunque un giornale nazionale. Quindi da noi i nostri fatti non vengono mai, c'è cioè un concerto importante in Veneto non è mai diffuso a livello nazionale, l'artista veneto non è mai eco nazionale, mentre negli altri regioni del nord Italia quello che succede nella regione comunque viene diffuso a livello nazionale più o meno, insomma, è chiaro, meglio Corriere che il Resto del Carlino, però in ogni caso. Poi bisogna dire che loro hanno anche un'arma molto più lunga, no? Se un fattaccio in Veneto viene sempre in qualche modo ingigantito, vengono fatte analisi da sociologi, vengono fatte trasmissioni investigative televisive, veniamo criminalizzati al massimo, no? C'è qualcosa in altre regioni d'Italia, insomma, comunque stanno un po' più attenti prima di criminalizzare, no? Io poi sono di Verona, abbiamo avuto tre omicidi negli ultimi 20 anni, che li conoscono anche i sassi, no? A Napoli ce ne sono 200.000 all'anno, non li conosce nessuno, no? Noi abbiamo avuto i tre, Maso, Stefani, e li conoscono tutti, no? Perché hanno fatto inchieste, ma lì ormai non fa più notizia. Ma non è questo il fatto che non è importante quello che è reale, no? Ma è la realtà televisiva che conta oggi, no? Cioè che esposizione ha la cosa, no? Cioè, l'importante oggi è se un fatto viene dilatato, no? Televisivamente all'infinito, ha un peso diverso che se non viene dilatato televisivamente. Se pensiamo che adesso ai tre ragazzi, no? Catturati poi di recente in Iraq, no? Il giro di una settimana questi sono stati ricevuti dal Papa, insomma, loro hanno avuto un concentrato di manifestazioni di solidarietà immense che se non fosse stato in mezzo televisivo non sarebbero mai accadute, assolutamente. E questo qua bisogna tenere conto, perché non è che, questo ne parlo non solo per me ma per altri artisti veneti, no? Il fatto è che noi abbiamo anche delle cose di grandissima qualità e che comunque paghiamo sempre comunque uno scotto. Questo non è, io non amo la cultura vittimistica, però così. Questo lo sappiamo bene, noi abbiamo spesso musicisti veneti, ma non solo, ma soprattutto veneti nei nostri studi. Abbiamo avuto non molto tempo fa una nostra comune conoscenza, Giulio Casale, che qui ha fatto alcune canzoni di Gabber, un programma, uno spettacolo che poi adesso sta portando avanti, e lui mi ha fatto un discorso abbastanza simile, nel senso diceva: il problema del Veneto è che sì, c'è questa grande ricchezza materiale, ma dal punto di vista culturale, per chi cerca appunto di fare delle cose che non siano puro intrattenimento ma abbiano anche un certo peso, come possono essere anche le tue canzoni o le sue, è veramente dura, difficile, insomma. Ma voglio dirti, non è affatto, io poi Giulio insomma l'ho aiutato io a fare il primo disco e quindi l'ho cercato di, ho fatto molta fatica anche in questo, no? Però voglio dirti, non so perché Erpiotta, no? Faccio un esempio, sì, no? Che è un esempio deteriore, no? Non penso che sia un prodotto culturale, spero, insomma. Lo conoscono tutti solo perché è romano e amico male di qualche... Sì, adesso faccio un pezzo di Celentano per pure, essere no, rilanciarsi. Non contento, esattamente. Insiste. Allora, mentre noi, no? Cose di grande qualità, no? Non riusciamo a fargli avere un eco importante, no? In certe zone d'Italia anche le cose più deteriori comunque si sentono. Questa è una cosa... vera, insomma, di là di... Un'altra cosa, abbiamo un musicista come Massimo Pivero che tu hai prodotto, sì, che ha dovuto trasferirsi a Milano per fare qualcosa. Sì. Sì, Massimo l'ho visto poi la settimana scorsa alla FNAC a Milano. Anche lui, cioè, comunque adesso lui in qualche modo sta a Milano, è di Jesolo, no? Sì, però di anche Jesolo, lui sì, fa un po' fatica, perché comunque è difficile creare un indotto, cioè una sorta di la famosa visibilità, no? Non abbiamo nessun tipo di contesto che ci visualizza. E io invece sono dell'idea che ci sono molte cose buone nella nostra regione. Noi siamo la terza regione come consumo dei dischi e la seconda come concerti, no? È possibile che non possiamo avere un po' la so- cioè che sia una massa di imbecilli, non credo, insomma. Assolutamente. Andiamo con un altro estratto da l'album Segreti Trasparenti. E questo brano si intitola Specialmente in gennaio. C'è una dedica, un sottotitolo, c'è sì, una è dedicato a F dall'altra parte del vento, ecco, una F puntata che però sì, diciamo che è dedicato al mio maestro De André, con cui ho lavorato per 20 anni, e dopo 5 anni della scomparsa sono riuscito a scrivere una lettera, perché è una canzone lettera questa. Chi poi conosce i fatti, insomma, ci sono dei particolari che corrispondono. Credo che noi stiamo prendendo una cultura del lutto, no? Cioè dell'accettazione del lutto. Viviamo una cultura in cui non c'è stata la vecchiaia, tutti si tingono i capelli, tutti si tirano la faccia, tutti vogliono avere il look, l'immagine, no? Sì, sì, no, come c'era la nostra d'accordo, presidente. Abbiamo insomma, appunto degli esempi abbastanza, per non fare dei nomi, insomma, importanti. E in cui non si accettano le sentenze, non si accettano i giudizi, non si accettano le critiche. Per esempio, io sono nato in un contesto, mio padre era un insegnante, in cui le critiche piovevano dalla mattina alla sera, no? Con quattro sorelle, immagine tipo. Oggi la critica non si accetta più, non si accetta più né a livello personale né a livello politico, no? Quindi abbiamo una cultura della non accettazione, no? In questa non accettazione la cosa più grave è non accettare la morte, no? Perché la morte fa parte della vita e il lutto fa parte della vita, no? E accettare il lutto penso che sia veramente l'unico modo, è un passaggio necessario per accettare la vita. Io ho accettato un lutto dopo 5 anni, ho fatto molta fatica perché per me non è stato solamente un maestro ma anche veramente un fratello maggiore, voglio dire, perché era troppo giovane per farmi da parte. Per cui poi per me è difficile parlare a livello personale perché era un amico, non riesco mai a vederlo come figura di cantautore. Chiaro. Sono riuscito a scriverci qualcosa e spero che la mia sia una voce magari più coerente, insomma, di tanti che parlano di De André. E ormai si è creato un mercato delle vacche, insomma, ne parla gente che non ha mai visto, mai conosciuto. Ormai si è creato un mercato, no, su De André. Il discorso faceva Giulio Casale a proposito di Gabber, direi che sono due. Infatti, lui ha lavorato con Gabber, no, molto a lungo, no? Mi risulta. No, l'ho Gabber era molto sì, famiglia. Benissimo, allora direi che potremmo ascoltarci anche quello che è il pezzo di Specialmente in gennaio, si intitola così, tratto da Segreti Trasparenti, Massimo Bubola. Specialmente in gennaio che ci mordono le volpi, è specialmente in gennaio che annaffiamo queste croci, specialmente in gennaio qualcosa filtra da lassù, specialmente in gennaio perdoniamo un po' di più, specialmente in gennaio camminiamo più veloci, è specialmente in gennaio che le lacrime son dolci, ci consola la pioggia e i sogni parlano di più, specialmente in gennaio, noi dormiamo a testa in giù. Dovunque sei, dovunque vai, c'è una musica più in là. Quello che eri, quel che sarai, ti rivela un po' di più. Poi guardi il cielo e c'è una stella nuova lassù. E quella stella che brilla in cielo, quella sei tu. E specialmente in gennaio che ritornano le voci, e specialmente in gennaio che ci allagano i ricordi, e specialmente in gennaio che mi manchi un po' di più, specialmente in gennaio porto il tuo giaccone blu. Dovunque sei, dovunque vai, c'è una musica più in là. Quel che vedevi, quel che vedrai, ti rivela un po' di più. Se le parole dagli occhi nel cuore ti scendono giù, se le parole negli occhi dal cuore ti salgono su. In gennaio che gli amici sono forti, che ci ascoltano a lungo quando i giorni sono più corti, ma mai niente o nessuno ci consolerà qua giù, specialmente in gennaio freddo non ti molla più. Dovunque sei, dovunque vai, c'è una musica più in là. Quello che eri, quel che sarai, ti rivela un po' di più. Poi guardi il cielo e c'è una stella nuova lassù, è quella stella che brilla in cielo, quella sei tu, è quella stella che brilla in cielo, quella sei tu, è quella stella che brilla in cielo, quella sei tu. Quella stella che brilla in cielo, quella sei tu. E quella stella che brilla in cielo, quella sei tu. Ogni sera di radio vi porta nel mondo del rock con Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. il lunedì con novità e recensioni, il martedì heavy metal, il mercoledì gruppi dal vivo in studio, il giovedì alternative rock, il venerdì il rock più pop. Cerca ogni sera il mondo del rock su D-Radio. Dalle 22 alle 24 c'è Rockwave, l'onda del rock. E ancora una volta buonasera, siamo a mercoledì 26 maggio del 2004, sempre di radio, sempre Rock Wave nella versione speciale con graditi ospiti sempre qui che si esibiscono dal vivo. Ancora buonasera da parte di Flavio Bilato, Stefano Dainese e Maurizio Calzavara, e ancora una volta diamo il benvenuto a Massimo Bubola e a Michele Gazic, che sono venuti a trovarci per la presentazione di quello che è il nuovo album di Massimo Bubola, che si intitola Segreti Trasparenti, e abbiamo ascoltato anche la seconda traccia di questo disco, che si intitola Specialmente di Gennaio. In gennaio, scusate. Notavo la ricchezza dell'arrangiamento di questo brano, che ha una autentica orchestra di chitarre, tastiere, percussioni. Cioè, in realtà tastiere, cioè... no, è un Hammond. Cioè sì, Hammond, scusa, sì. È vero, è scritto. No, infatti... io siamo contrario alle tastiere. Vabbè, l'Hammond è un piano e basta, sì, sì. Adesso una tastiera. Sì, sì. L'arrangiamento è fatto te, Michele? No. Quasi tutto. No, io veramente mi sono limitato a suonare appunto il piano e a suonare qualche nota di mandolino in questo caso, insomma, sì, sì. È tutto farina del sacco di Massimo. Tutto Massimo. C'è anche Simone Chivilola alle chitarre, mi pare. Sì, sì, sì, sì. Simone, che è senz'altro un grande musicista a veneto, e che, con cui ho prodotto poi il Cavaliere Elettrico 1 e 2, ed è nella band anche lui. Sì, certo. Sì. Grande talento. A proposito di band, per riprodurre queste sonorità dal vivo, viaggerai con... Siamo in sette. Ah, ecco quello. Sì, che... sì. Caspita. Non... Suoniamo qui a Padova il 14 luglio. Al banale estivo. Ah, bene, questa è una annuncio importante, sì, sì, sì, da fare, che ripeteremo poi, sì, nelle, sì, prossime, sì, settimane. Il nostro, sì, amico Massimo... La presa della Bastiglia, 14 luglio. Ah, sì. Esattamente, la presa della Bastiglia. E voi prenderete il banale, insomma. Esatto, prenderemo anche noi la nostra Bastiglia. È un bellissimo posto, fra l'altro. Che già, sì, più volte, peraltro, conquistammo, quindi... Esatto. Sì. Si chiama ancora Hacker Band, sì, il tuo seguito, sì. Sì, sì. Sì, è una band che ha, insomma, in parte lavora ormai da quasi 9 anni con me. E quindi è uno dei pochi, insomma, esempi in Italia di una band che ha questa continuità. Cioè, di una band che lavora con un cantautore, insomma. Ecco. Poi quindi... ogni anno qualcuno entra, qualcuno esce, però diciamo che il nucleo rimane quello, insomma. E diciamo hanno anche una... non sono soltanto degli accompagnatori a questo punto, possiamo dire che... pur essendo l'album a nome tuo, sì, sì, musicisti... un gruppo di lavoro, insomma, che comunque, insomma, in qualche modo ha cominciato a lavorare con Montresor nel 97, poi Diavolo e Farfalle nel 99, sì, e poi nei live è in questo, quindi un gruppo ormai di lavoro. Prima ho lavorato con la Wawa Band, che l'avevo metà con Mauro Pagani, 96, insomma, Amore e Guerra, 90, e 97 Montresor, ho lavorato metà e metà, sì. In questo disco c'è una ricerca del suono che tu hai definito una ricerca di base, come, sì, mai, Massimo? Sì, noi abbiamo cercato un suono perché abbiamo un concetto, mi piace dire americano, perché in realtà credo che lì ci sia una sorta di musicalità più adulta, cioè nel senso che un disco è una proposta anche di suono. Noi a volte abbiamo dei dischi che sono molto disorganici come suono, no? Ci sono dei dischi dei nostri cantautori che magari hanno un pezzo pop, uno reggae, uno rap, uno... cioè, è come se... Invece io sono andato in musicisti che avevano un suono, se penso a Young, a Dylan, ma anche per Jam, insomma. Cioè, la proposta anche di un suono. Cioè, un ristorante propone un tipo di cucina. Certo. E quindi abbiamo scelto un suono che fosse acustico, ma molto scuro, di chitarre... che in realtà la chitarra, insomma, abbiamo usato una vecchia Martin del 56, una 00018 e un suono Rickenbacker, no? A questo suono qua al disco c'era una copiata di suoni quasi un po', insomma, underground, un po' psichedelici, e poi le orchestrazioni di archi e pianistiche che ha fatto il professor Gazic, e poi, insomma, altre sonorità, perché abbiamo speso di gennaio, abbiamo usato una pedal steel. Sono Andrea, mi pare. Anchise, sì, Bolchi. Che è stato Anchise Bolchi. Che non sono in molti a suonare la pedestina. No, in Italia sono pochissimi. Certo, difficile. È molto difficile, certo, come strumento. E poi c'è clarino basso, cioè, quindi ci sono anche in ogni canzone ci sono degli strumenti che danno dei colori anche particolari, però la base è una base elettroacustica che risente un po' anche di Seattle, no? Quindi che guarda anche un po' all'esperienza di tutti i folk singer che sono usciti da quel tipo di sonorità. Penso a Mark Lanegan, certo. Andrew Dorf, a questi musicisti importanti, insomma, che comunque hanno evoluto il suono. E a volte ho la sensazione che i miei colleghi in Italia non li avevano mai conosciuti né sentiti. Beh, questa è una sensazione che ho anch'io molte volte. Ascoltando, sì, insomma, qui passa molta musica, chiaramente. Infatti, è come se noi fossimo ancora a fare della letteratura neoclassica con romanticismo ormai che impera da 50 anni. Noi siamo sempre... L'Italia è un paese un po' retro, perché comunque paga una sua, anche in letteratura, si è pagato uno scotto alla classicità, insomma. Io ho avuto l'occasione di intervistare, anche di conoscere dei musicisti americani. La cosa che mi ha sempre sorpreso è che un musicista che fa dei dischi per voce e chitarra acustica, per dire, poi gli si chiede cosa ascolta e saltano fuori delle cose assurde, cioè ascolta dai gruppi punk metal, esatto, al rap, a Eminem, perché dice che comunque l'uso dei testi di Eminem è una cosa che vale la pena di essere seguita. Cioè hanno un'apertura mentale che purtroppo molte volte... Ma sai, in Italia i musicisti ascoltano in genere solo la musica che fanno, no? E amano solo la musica, e hanno una tendenza a volte un po', come dire, un po' di puzza al naso in confronto delle altre musiche. Io penso che sia un po' come nel calcio, no? Io amo molto anche altri ruoli, no? Però tu... io ascolto Mozart la mattina, poi non so, in certi momenti ascolto jazz, io ascolto molta musica che non faccio. Ma è come una donna che, non so, è un po' forte di seno e altro, così dice: mi piacciono certi vestiti ma non me li posso mettere, sarebbe ridicolo. No? Però li ama messi dagli altri, no? Certo. Noi non possiamo amare solamente le cose che stanno bene a noi, no? Poi ognuno ha la sua predisposizione. Io sono adatto a fare questo tipo di musica, credo, no? Però non è che non ami le altre musiche. E mi ricordo sempre quando facevamo il disco dell'Indiano a Milano, al Carimate, con Fabrizio. C'era lì vicino Pino Daniele che stava registrando un disco, e c'era il sassofonista dei Weather Report, no? One Short, no? Che lui, e poi c'era il gruppo di Pino Daniele, no? E lui andava a ascoltare i Pooh, no? Che era un altro studio, no? One Short? Sì. Ah. E tutti quanti su Pino dicevano: ma come mai One Short? Invece che ascoltare, non so, jazzisti o quelli che facevano la musica. Sì, perché gli americani non hanno questo tipo di strutture. Per loro un grande musicista può fare anche country, folk, non... se uno è un grande musicista è un grande musicista a prescindere dalla musica che fa. Mentre noi, se uno fa il jazz è già un po' più fico di tutti, no? Perché lui fa il jazz, no? Fa più accordini degli altri, no? Ecco, c'è un po' questo tipo di atteggiamento imbecille, no? E purtroppo noi i musicisti sono spesso degli imbecilli, cioè gente che ha quoziente intellettivo veramente bassissimo. Evitiamo nomi. No, nel senso che non puoi pensare che ci sia una musica perché fai gli accordi più difficili che sei più bravo degli altri, insomma. E questo è stupidissimo. Sfondi una porta aperta, perché... Vuol dire che i pittori più bravi sono quelli che usano più colori degli altri, insomma. Sì. È stupido. Insomma, siamo al problema di demenza proprio. Io dico sempre che il mondo è pieno jazz, fa fico. Jazz. Facciamo fare che ti faccia il jazz in Italia, ti fanno il jazz. Io dico sempre che il mondo, anche della musica, è pieno di bravi, ma basta. Cioè gente che ovviamente sa fare bene. Sono bravi tante strumentisti, cose, ma non sono dei musicisti. Esatto, esatto. Bene, ci suonate qualcos'altro? Di jazz? Sì. No, quello che vuoi. Io direi, che vuoi. Diamo un attimo lo spazio alla pubblicità, poi ritorniamo direttamente jazz in diretta. Sì. Giusto. E poi, sì, no, jazz no, pubblicità. Di Radio Spot. Ciao, oggi è in studio con noi Elisa. Allora Elisa, soddisfatta del tuo nuovo album? Elisa, a quando la tournée? Elisa? Ciao, sono Elisa. Ogni giorno nel mondo più di 1 milione di bambini è vittima dello sfruttamento sessuale. Aiutiamoli con ECPAT. www.ecpat.it. Di Radio. Di Radio. Di Radio. Il rock di Radio Wow. Ed eccoci qua nuovamente in studio con Massimo Bubola e Michele Gazic per quella che è la presentazione dell'album di Massimo Bubola, che si intitola Segreti Trasparenti. Però ci ascoltiamo un qualcosa dal vivo proprio di Massimo. Cosa ci proponi? No, mi sono preparato. ma devo fare visto che parlavamo di prima parlavamo di Fabrizio dell'indiano, sì, potremmo fare Hotel Supramonte. Hotel Supramonte, sì, bellissima. Io volevo chiedertelo ma hai preceduta. Proviamo, sì, sì. Se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte e falsa di giorno. Poi accuse e scuse e accuse, senza un ritorno. E ora viaggi, scrivi vivi, sei perduta. Col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dove, dov'è il tuo amore? Dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da piangere. E un invito all'hotel Supramonte, dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così sporco di sete. Passerà anche questa stazione senza farci del male. Passerà questa pioggia sottile così come passa il dolore. Ma dove, dov'è il tuo amore? È finito il tuo amore. E ora siedo ai bordi del letto che vedo il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è quel bambino che dorme. Svegli e ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se mi hai bestemmiato e se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Domani sarà un giorno immenso di nuvole e sole. Ma dove, dov'è il tuo amore? Dove è finito il tuo amore? Thank you. Hotel Supramonte è un pezzo di storia della musica italiana, diciamolo pure, un brano che avevi scritto ormai quanti anni fa, non so, ho perso il conto. Dunque è un brano del più o meno scritto nell'80. Sì, dopo... Quindi... La parte dell'Indiano, vero? Sì, parte dell'Indiano. Dunque, lui usciva da un rapimento, no? Appunto, quello volevo... dicembre. Io uscivo dalla Naia invece. In fieri, ti è andata bene comunque? No, ho fatto 8 mesi di più. E quindi, da un sistema, il suo coercitivo e il mio semi-coercitivo. Io ho scritto una storia d'amore, no? Per la mia morosa, insomma, di quel tempo. Ho fatto una vacanza ad Alleghe, in montagna dove c'era la neve, dove io ho imparato a sciare, tra l'altro. E sono storie d'amore che sono un po' incrociate attraverso una sorta di sofferenza comune, insomma, diversa, voglio dire, però è come una canzone che si può leggere in due modi, cioè a due facce. Poi è chiaro che per la gente, insomma, è contato più il rapimento, perché era quella la parte più, insomma, pubblica, conosciuta dell'interprete, poi conosciuta, sì, però c'è anche una parte, siccome, di una storia d'amore, come dire, di due giovani ragazzi che hanno una grande tensione reciproca, una grande volontà di capirsi, ma hanno una grande difficoltà a farlo. Come quindi, spesso accade. Sì. E, parlato prima dell'amorosa, mi sembra in questo disco ci siano diversi riferimenti al matrimonio. Sì. C'è una ragione particolare o... Quando scrivi un disco, scusa se modifico la domanda, parti con in testa già... un obiettivo o la cosa ti cresce per le mani, diciamo, come un fiore che sboccia? Ma direi che quando fai un disco, la prima parte del disco la fai tu, la seconda parte è lui che fa te. Per cui io parto scrivendo moltissime canzoni, poi quando scelgo le 5, diciamo, sicure, poi da quelle partono le altre, no? Ma io comunque, cioè dire una cosa secondo me che è importante, cioè in Italia la canzone d'autore ormai da un po' di tempo è minimalista, no? Si occupa di questioni piccole, no? Di tequila, di serate, i capelli, di ciuffi, cioè. E io sono per la canzone massimalista, cioè quella che affronta i grandi temi dell'uomo, la morte, la vita, la disperazione, la vendetta, anche i sentimenti negativi, insomma, il lutto, e anche l'amore, il matrimonio, comunque affrontare delle questioni importanti, no? Ma canzoni d'amore ce ne sono tante, canzoni che parlano di matrimonio ce ne sono pochissime. Poche, sì. Questo, cioè, che mi ha colpito. Sai con me che, per esempio, è un elenco di sconfitte, no? Parla del matrimonio come un elenco di sconfitte. Ma attraverso queste sconfitte si crea una sorta di unione forte, no? Io credo che il matrimonio sia un esempio di costrizione a crescere, no? Di essere costretti a superare le difficoltà, no? Oggi abbiamo una cultura in cui, non dico le prime difficoltà, ma se c'è una piccola idiosincrasia si spacca un rapporto. E non solo i rapporti amorosi, che quelli sono più soggetti, insomma, ma anche i rapporti amicali, no? Che è la cosa più grave. Se tu sbagli a dire una parola in una cena, no? Rompi l'amicizia. Mio padre faceva botte con i suoi amici. E restavano amici. E quindi viviamo anche una precarietà di sentimenti che è terribile, ma non tanto sui rapporti amorosi che sono soggetti, insomma, ma è sui rapporti amicali che sono, è il consumismo sentimentale che è devastante. E comunque c'è una grande differenza. C'è una grande offerta. Sì, ma c'è anche una grande differenza tra quello che è il rapporto tra uomo-uomo e donna-donna e uomo-donna, no? Nel senso che, appunto, come si diceva prima, magari anche tuo papà prendeva botte e poi magari il giorno dopo si era già amici come prima. Ma infatti a me è piaciuta molto l'Irlanda negli anni 70 perché era così. Cioè, in effetti, se uno è intelligente fa botte solo con gli amici, deve farlo, perché sai che non ti fanno del male. Sì. Con gli estranei vai a fare un coltello, no? Esatto. Se non conosci nessuno, quindi non fare mai botte con chi non conosci. Certo. Poi dopo bevono, perché a volte c'è una sorta di aggressività che si scarica, no? C'è un grande scrittore cattolico, si chiama... René Girard, no? Che ha scritto un libro su Shakespeare, no? Che si chiama Il teatro dell'invidia, in cui parla della violenza collettiva, no? Che si scarica attraverso il teatro. Una volta usavano il teatro per scaricare violenza collettiva, cioè tensioni collettive. È chiaro che adesso ci può essere lo stadio, momenti di scaricamento, però non c'è più uno scaricamento culturale, no? Per cui la gente è molto più aggressiva nei rapporti, è molto più, giudica più e tende anche a selezionare in maniera anche un po' così velleitaria, fanno delle rappresaglie. Perché ci si sceglie con molta facilità e ci si lascia con più facilità. E questo è il consumismo sentimentale, è una grande questione. Io questo dico qua si parla di questioni anticonsumistiche, nel senso sentimentale, insomma. Poi però c'è Giulio Lofene che parla del sacrificio, sì, no? Sì, ho visto, è un'altra, è un'altra cultura che si sta perdendo, quella del sacrificio. Ha anche riprodotto il quadro di Caravaggio, sì, nel libretto interno. Volevo parlare un attimo, visto appunto eravamo sul tema del matrimonio, questo pezzo, La Fontana e la Domenica, che è molto leggero, sì, come, sì, sì, come atmosfera, e c'è questa, questa voce femminile di Luciana Vaona, che adesso tu mi dici essere straordinariamente giovane, sì, una, sì, la notizia mi ha veramente lasciato a bocca aperta, perché sì, canta con, non con la tecnica, ma con la consapevolezza, sì, diciamo che sentendola io pensavo che avesse una certa età, una certa età, insomma, perché non fosse una voce molto sensuale, secondo me, cioè, inconsciamente, no? Perché in realtà è una ragazzina normale che ascolta Mariah Carey e non ha sentori, cioè non conosce il Fairport Convention, non conosce neanche. Ma lo sai che canta meglio di Mariah Carey lei? Beh, insomma, glielo ho provato a dire. E non conosce neanche Susan Vega, quindi non ha modelli femminili che ne sono quelli che gli vengono proposti, Georgia o queste cose qua, queste che fanno confondono arte e sport, ma no? Fanno dell'esibizionismo vocale, no? Esatto. No, lei è una che ha una bella voce calda e molto sensuale, a sua insaputa. La canzone è una canzone popolare, no? E ha quella leggerezza che non è, cioè è una leggerezza calviniana, nel senso calviniano, no? Cioè la capacità di narrare senza essere pesanti, no? Che è una facoltà che io ho quando scrivo, ma non quando parlo. E quindi dire cose. E poi quando con il regista Anderloni aveva fatto il video, no? Sì, c'è un video legato. C'è un video, lui la pensava come lei con un spasimante, no? Invece quando gli spero che erano due gli spasimanti, no? E che la domenica quando si deve riposarsi in realtà è un altro amante che è un uomo sposato, no? E che poi la madre, perché no, a quei tempi erano i genitori che scelgono i mariti, no? Sì. Le aveva scelto un altro marito che poi nel video è il più giandone del paese. E quindi questa donna che gestisce, no, quattro figure maschili, mi viene in mente quella figura che è stata la prima figura moderna femminile. In questo evento abbiamo un primato, no? Che è Goldoni, no? Per primo una figura di Mirandolina nella locandiera. C'è una figura che ribalta tutti i termini, cioè è lei che gestisce gli uomini, no? Verissimo. Una figura modernissima che ha fatto poi testo su tutta la letteratura, no? C'è qualcuno che ha anche scritto La serva padrona, se non sbaglio, no? Relativamente a questo. Sì, non so se era lo stesso Goldoni, ma non sono così. Mi è spiazzato. Vabbè, comunque noi adesso ci ascoltiamo. Però in effetti è divertente questa figura femminile, che è lei che decide su una base popolare, perché sono anche i giorni della settimana, no? Chiaro. E naturalmente questo pezzo l'hai scritto sapendo che c'era lei in studio, cioè che avresti potuto avere. No, l'ho scritto molti anni prima, insomma. Ah, quindi è rimasto lì, sì, in attesa, sì, del. Sì, sì. Capita di... poi, sì. Certo. Allora ci ascoltiamo La Fontana e la Domenica, Massimo Bubola su Di Radio. Ti ho incontrata una mattina mentre andavi alla fontana, con il vento che girava a tramontana. Il mio cuore è andato a pezzi come un calice di ghiaccio che si stacca e cade giù da una grondaia. Dimmi se ti posso dire, se ti posso accompagnare, la tua cesta di lenzuola da portare. E se posso poi sperare di vederti sola sola, senza gli occhi di tua madre sulla schiena. Ma lunedì ho da pulire, martedì devo cucire, mercoledì ho tra fratelli da pulire, giovedì ho da lavare, venerdì devo stirare, mentre sabato ho i capelli. Domenica, domenica, la domenica. messa in terza fila dalla parte delle donne. C'era un angelo con le ali e con le gonne. Di profilo la vedevo che cantava sotto il velo. Non riuscivo più a seguire né a pregare. Dimmi se ti posso dire, se ti posso accompagnare verso casa in bicicletta lungo il fiume. E se posso poi sperare di poterti rivedere in un posto che si possa ragionare. Ma lunedì ho da pulire, martedì devo cucire, mercoledì ho tre fratelli da accudire, giovedì ho da lavare, venerdì devo stirare, mentre sabato ho i capelli da tagliare. E la domenica, domenica, la domenica incontrata una mattina mentre andavi alla fontana con il vento che girava a tramontana, i capelli color rame, i tuoi occhi fiordalisi e la bocca da Madonna dei ciliegi. Ma lunedì ho da pulire, martedì devo cucire, mercoledì ho tre fratelli da pulire, venerdì devo stirare, mentre sabato ho i capelli da tagliare. E la domenica, domenica, la domenica mi devo maritare. E poi domenica, domenica, poi domenica mi devo maritare. Rockway, l'onda del rock. Allora, ci siamo ascoltati anche questa bella canzone di Massimo Bubola che si intitola La Fontana e la Domenica, dove si parla di un matrimonio assolutamente normale, o sembrerebbe esserlo, non certo quel matrimonio a cui siamo stati ospiti, diciamo, anche se non lo volevamo, a Rai 1 con la boda reale, quindi il matrimonio in Spagna, sabato. Esattamente. Questo invece era proprio un matrimonio nostrano. Flavio, ricordati che c'è sempre il trucco, eh? Sì, sì. Basta spegnere la televisione e accendere la radio. È vero. Ci si salva anche dai matrimoni, sì, reali. Assolutamente, solo che l'hanno fatto su Rai 1, quindi. Oppure si mette su un CD di Massimo Bubola. No, su Mediaset l'hanno fatto. Su Mediaset, sì? Su Canale 5. Questo è importante. In ogni caso è una canzone autenticamente popolare questa. Sì, sì, sì, sì, io penso che sono dei temi che vanno in qualche modo rivitalizzati. Noi purtroppo in Italia li abbiamo un po' persi di vista, però quest'anno siamo andati al Convegno Europeo delle Etichette Indipendenti a Siviglia e abbiamo visto che negli altri paesi europei il folk rock è la musica più importante, in Italia è una musica minoritaria. Si è lasciata da parte. Sì, invece negli altri paesi, diciamo, il songwriting e la parte del folk rivisitato, del folk rock, è la parte principale, insomma. Quindi noi siamo un paese in questo senso qui un po' fuori dall'Europa. C'è un'eccezione, però ogni estate a Spilimbergo fanno quel grande festival. Sì, sì, sì, poi io sono molto amico e tra l'altro abbiamo prodotto il disco di Sedon Selvaggia, no, nella ECA. Sì, loro hanno una vetrina di folk, ma in realtà c'è molto più folk europeo che italiano. Ci sono anche i Cetro Tal che compaiono una, sì, volta ma sì, una volta in Italia no. Noi abbiamo del folk, in genere quello della Val Brembana, quello della, sì, Val, ma c'è poco folk rivitalizzato, non so come dire. Il nostro è un folk, come dire, un po' iconografico, no? Integralista, ma non c'è un folk che rivive, no? Che vive nel presente, che assume anche altre... Questo tuo discorso mi ricorda una cosa simile che ci ha detto un attimo di defiance, uno della gang. Sì. Severini, uno di fratelli. La, beh, sarà Marino, perché Marino, non Marino, l'altro non parla quasi mai. Esatto. Esatto, Marino Severini l'avevo intervistato telefonicamente un paio di mesi fa. Hanno fatto quel disco molto bello insieme ai musicisti della Macina e hanno messo insieme, diciamo, le loro canzoni che tu ben conosci con... Alcune sono mie. Sì, sì, esatto. Sì. Quella famosa Eurio Leoniso che... Sì, sì. Esatto, l'hanno rifatto. La propongono parecchie volte, giustamente. Con, sì, con questi musicisti della Macina ho trovato un'operazione estremamente riuscita dal punto di vista artistico, e mi diceva Marino che loro sono entusiasti della risposta che hanno da parte di un pubblico molto giovane, sì, sì, per il quale evidentemente sta roba è più rivoluzionaria del rap, visto che non l'aveva mai sentita prima, probabilmente. Cioè, sì, sì. Non c'è niente di più inedito del già sentito, se arriva, diciamo, dal, sì, nulla. Sono dal, parametri, dal, secondo me sono parametri, come dire, europei. Cioè, in Europa si beve la birra, insomma, in Italia, a fine metà anni fa, non si beve, si beve anche da noi. Cioè, noi dovremmo andare verso questa cultura, perché non c'è niente di meglio che mischiare le proprie radici con qualcosa che avviene in quel momento, no? Non possiamo continuamente importare cultura da fuori e riprodurla in maniera pedissequa, insomma. Anche perché poi molte cose italiane all'estero spopolano. Ho scoperto, sapevo che Gian Maria Testa era famoso, parlavo con delle persone americane e tedeschi che erano fermamente convinti che in Italia Gian Maria Testa fosse più famoso di Giorgio, di Michael Jackson, perché è considerato un genio in tutta la Francia, sì, in tutta la Germania, e qui in Italia in effetti praticamente non esiste. Sì, sì. Dopo, io fra l'altro ho sentito pochissimo dei suoi dischi, proprio perché non è un genio. Comunque, in che senso? Non è un genio. Ah, non è un genio, no. Ok. Ma però nel senso che lui ripropone un repertorio e un tipo di percorso che l'ha già fatto, insomma, minimo 10 persone prima di lui, insomma, per cui Paolo Conte a Capossela. Infatti a me ricordava molto Paolo Conte. Sì. Il fatto è che per gli stranieri... Un genio è uno che inventa un genere musicale, certo, che inventa un linguaggio nuovo. Lui è bravo, ma non è uno che ha inventato qualcosa. Sì, però dicevo, è la dimostrazione del fatto che l'Italia avrebbe anche la possibilità di far sentire le, sì, sue cose all'estero, che, di farsi conoscere. Credo che ci siano dei grandi, insomma, dei buoni scrittori di canzoni in Francia, in Spagna, anche di livello medio, insomma, che hanno comunque un ambito. Da noi la canzone d'autore è un po' poco considerata oggi, no? Ma non tanto perché non esista, non ci sia, tanto perché ha poco spazio nei media. Parlavamo prima dei fatti, anche dei fatti di sangue, no? Quelli più rappresentati sono quelli che sono chiaro, per cui noi abbiamo poco spazio televisivo, quasi niente, direi per il mio caso niente, direi che non esistono più i programmi come il programma che faceva Arbore molti anni fa per televisione, che davano sviluppo a queste voci. Non esistono più. No, non c'è più. Tutto quello che fa pensare viene in qualche modo emarginato. Forse anche i cantautori in un certo periodo storico erano la voce di qualcuno. Adesso è difficile definire perché questo succedeva, però sicuramente Guccini o i primi dischi di De Gregori, naturalmente De André, rappresentavano veramente un qualcosa che esisteva nella società. C'era della gente che si sentiva rappresentata da loro. Adesso non so, forse i ragazzi si sentono più rappresentati. Ma credo che non ci sia un fatto di non ci siano categorie. Io abolisco la categoria dei giovani, sono le persone intelligenti e i cretini. Io penso che una bella canzone di Bob Dylan di 60 anni riguardi anche uno di 15 anni. Non c'è, c'è un quadro di Caravaggio, ci riguarda tutti, insomma. I giovani vengono presi a calci. Credo che abbiano bisogno di contenuti. Io faccio un corso qui a Padova, no, all'Einaudi, con dei ragazzi di 18, 20 anni, alcuni ne hanno anche 16, insomma. E ho fatto sentire alcune canzoni di Suzanne, di Cohen, sono rimasti incantati. È chiaro che se li fanno sentire solo Biagio Antonacci lo credo che sia il massimo della vita, certo. Cioè è chiaro che non c'è una controfferta, per cui loro conoscono pochi artisti perché pochi gliene fanno conoscere. Sarò molto disponibile ad apprezzare le belle cose. Cioè, se io faccio già un bicchiere di Barolo, no? Invece che il Tavernello, sono sicuro che scelgono il Barolo. Non mi fanno mai assaggiare. No, fra l'altro, poi succede che il Barolo non è un vino per i vecchi, è un buon vino e basta. Una cosa buona è buona per sono tutti. Sono perfettamente d'accordo. Ma notavo appunto il discorso che non conoscono le cose. Adesso tutti quanti hanno scoperto che Moondance è una canzone bellissima, perché c'è quella mediocre versione di Michael Bublé. Sì, si chiama, ecco, che oppure, francamente non vale un decimo dell'originale. No, con The Avest Door è conosciuta la versione di Guns N' Roses, sì, terribile. Ma era una gran canzone lo stesso, no? Sì. Cioè, non sono riuscito a distruggerla nemmeno, tanto che era bella. Ci hanno provato, ma però io sono convinto che certe canzoni, spesso Famous Blue Raincoat, riguarderebbero tutti, no? Solo che non vengono proprio fatte conoscere. Quindi non è vero che la gente non ama certe cose. Io ti faccio un esempio del cielo d'Irlanda, quando l'ha cantata Fiore della Mannoia, no? Non lo volevano passare per radio perché è un pezzo folk, no? Sai che da noi la radio sono. Parla dei network, ovviamente. Sì, sì, chiaro. Sono molto, non noi, non noi. No, no, infatti, sono molto prevenuti, no, su certa musica, no? Poi lì, per fortuna, c'era una grande casa discografica potente, c'era una produzione potente, l'hanno imposta. E poi, come l'hanno cominciato a passare, è stata molto gradita, è andata una hit radio, no? Così come penso a quel pezzo Hey Joe fatto da Willie DeVille, che non lo volevano passare, poi è stato un successo radiofonico. Quindi non è vero che certa musica non succeda, è semplicemente perché i network sono autoreferenziali, no? E anche le agenzie di audit sono loro, no? Qui si fanno le classifiche in casa da soli, no? Sì, vecchia storia anche questa. Sì. Senti, forse comunque bisognerebbe imparare anche un po', voglio dire, l'inglese, anche basandosi su quelli che sono i testi, così magari si impara imparando. Si scoprirebbero gli altarini, certi testi di canzoni che sono in tutte le classifiche, che sembrano canzoni dello Zecchino d'Oro, ma insomma... non faccio nomi. Bene. Ci suonate qualcos'altro? Non so se volevo, io magari proverei a passare anche una canzone del disco, se vi va intanto. Sì, sì, certo. Noi lasciamo, non costringiamo, non chiediamo. Sentire quella campana, che... perché questa è una canzone di cui volevo chiederti, perché mi ha veramente, prima tu dicevi che hai impiegato 5 anni prima di scrivere una canzone riguardo a Fabrizio De André, e questa invece, questa è la campana, 30 invece. Sì, ma sì. Passo bene, non sapevo niente di questa tragedia familiare, e immagino sì che prima di scrivere una canzone su un argomento del genere devi avere, come dire, digerito completamente. Sì. Una... Se quando muore un fratello più piccolo, secondo me si creano dei fenomeni che succedono a tutti, insomma, in qualche modo si crea un senso di colpa dei sopravvissuti, no? E questo riguarda anche, insomma, i sopravvissuti della Shoah, per esempio, no? Che dicono perché io mi sono salvato e non altri che erano migliori di me. Poi assumi un po' la personalità degli scomparsi, no? E poi comunque ti trascini un senso di colpa, insomma, negli anni. Quindi è difficile accettare il lutto, poi sopportarlo e poi riuscire a parlarne, per cui è passato tanto tempo e l'ho fatto in maniera molto faticosa, e questa canzone qua l'ho cantata una volta sola, infatti si sente che verso la fine c'è un po' di commozione nella voce, però ho preferito tenerla perché mi sembrava più un'interpretazione che forse più calzante, anche se sono sacrosanto, anche perché qualche così vuol dire la voce si spacca a un certo punto. Ci fa molto piacere che tu ce la suoni qui. Sì, se ti va, naturalmente. Ah, la suoniamo, dici? Sì. Proviamo. Sì. Ai confini del tempo, dove quiete silenzio, c'è qualcuno che chiama, senti quella campana che suona. Qualcuno che mi chiama come quella campana che parla di te. Quando avevo 10 anni non avevo mai affanni. Credevo che il tempo per me fosse eterno e lo fosse per te. serve più a niente pensare che forse sei felice lassù. E difendi quel vuoto se non puoi avere indietro la sua gioventù. Campana, un brano straordinario qui dal vivo nei nostri studi, gli studi di Radio, la voce di Massimo Bubola, il violino di Michele Gazdic. E a questo proposito volevo chiedere anche qualcosa a Michele, che Massimo ha chiamato il professore, io non sapevo, scuso, professore di violino immagino. No, di università, di lettere, e poi è anche diplomato in conservatorio, quindi direttore d'orchestra. Ed ecco produttore del disco. Complimenti, e non è riuscito a fare tutto. Non intendo, uno sente la descrizione potrebbe pensare che abbia 60 anni, invece. No. Incredibilmente sono anche ancora, insomma, in possesso delle mie facoltà mentali. Esatto. Quindi, Complimenti. Solo 34 anni, so. Sì, 34, sì, quasi 35. Complimenti. Gli arrangiamenti li hai curati da una parte Massimo, o assieme praticamente? È stato un lavoro di gruppo. Ci siamo, insomma, incrociati in questo lavoro. Io ovviamente gli ho curato ciò che riguarda più il mio strumento, gli archi e cose, insomma, connesse, insomma. Io ho fatto ritmiche, chitarre, tutta la parte. Io ho fatto violini e pianoforti. Strumenti più classici, diciamo. Beh, fatalmente. Fatalmente. Tu hai detto, Massimo, in un'intervista che volevi questo suono assomigliasse un po' al suono oscuro di Street Legal Desire di Bob Dylan. Sì. Come mai questo? Perché secondo me quelli sono stati. Io poi amo molto quella trilogia di Dylan, no? Che poi parte con Blood on the Tracks, no? Sì. Mi sembra che sia stata poi la maturità di Dylan, no? E non è stata poi neanche molto capita, perché mi ricordo ancora una stroncatura di Bertoncelli a Desire, so. Sì, verissimo. Poi Street Legal non è stato considerato un grande disco da nessuno, no? Oggi ho insegnato un pezzo ai ragazzi che è Change of Guard, no? In cui Dylan, come un profeta della Bibbia, fa un'analisi poi di tutto il pensiero fino a quel tempo e dà una lettura quasi come se si chiudesse un ciclo. Un disco, no? Molto religioso, Street Legal. Sì, un disco anche molto esoterico. Esattamente. No? Pieno, sì, di riferimenti anche oscuri. Credo che quello sia un disco ispirato e anche una sorta di narratività, soprattutto Desire e Blood on the Tracks. A me è piaciuto molto pensare come riferimento, dopo tanti anni, a dei dischi importanti così, insomma, per la mia carriera. Poi ricordo che, appunto, ho tradotto Romans in Durango, no? Certo. L'avventura Durango con De André per il suo disco Rimini, e quindi sono molto legato assoluto a quella forma di canzone, diciamo, prima, massimalista, no? Cioè che affronta argomenti importanti. Ma un'altra cosa, tu hai tradotto anche un libro di Patti Smith. Sì. alcuni anni fa. Sì, ho tolto la prova di Patti Smith perché mi è stato chiesto da Massimo Cotto, che era il curatore della collana. Della collana, sì, con cui condivido molte cose. E lei è un'attrice che ha creato una poetica femminile nel rock, quasi rara, unica. E mi è costato, mi sono rovinato un'estate. È stato anche molto impegnativo perché, insomma, è una scrittrice che usa anche un suo... Ci sono anche brani di Ari, no? Che usa queste tecniche del flusso di coscienza, no? Stream of consciousness, delle tecniche molto difficili. Per fortuna ho un cognato americano, newyorkese, che ha la sua età, che ha 52 anni, che mi ha aiutato un po' a capire un po' quel linguaggio. È diventato un lavoro impegnativo. Sì. Adesso volevo ascoltare il brano Roger McClure e volevo sapere da te chi era questo personaggio, perché non... Sì. È uno, no, che è fatto una brutta fine, si capisce dal testo. In realtà a volte tanti mi chiedono: ma perché usi storie lontane? No, in realtà uso storie lontane per parlare di fatti vicini, no? A volte le cose lontane ci parlano meglio, insomma, di fatti vicini. In questo caso è una storia di questo ragazzino irlandese che insieme a una banda di minorenni facevano rapine a Dublino fra le due guerre. Sappiamo che il fenomeno della criminalità infantile, non adolescenziale, ma infantile, si sta diffondendo sempre di più in Europa. Ci sono questi bambini delle fogne di Bucarest, per esempio, no? Però anche a Milano, due mesi fa, hanno scoperto queste bande di ragazzini che rapinavano. Si creano come delle macro famiglie di bambini orfani abbandonati che seguono un po' dei criteri gerarchici, però ritrovano la famiglia. Poi ci sono anche i bambini delle favela, insomma. Quindi è un fenomeno che comunque in qualche modo mi tocca, mi commuove, perché penso che sia un'età in cui bisogna pensare ad altre cose invece che a sopravvivere, e sopravvivere in maniera violenta. Quindi ho usato questa storia per parlare poi di un fenomeno che ci riguarda da vicino, che è molto più attuale di quello che pensiamo. Bene, allora ci ascoltiamo il brano. Massimo Bubola, sempre. A volte i salici cantano sottovoce lungo le rive del fiume, raccontano la storia di chi non c'è più. Oggi piangono Roger McClure. Ancora bambino dovevi lottare contro il destino e la fame. Sei arrivato a Dublino a piedi dal sud con solo il tuo nome, Roger McClure. Un fiore selvaggio cresciuto così, senza un consiglio, un rifugio. Il figlio di tutti e di nessuno eri tu. Il tuo nome era Roger McClure. Le carezze di madre, nel sorriso di un padre, la tua casa era un pub diroccato. Tu e la giovane banda dormivi laggiù. Il tuo nome era Roger McClure. Un fiore selvaggio cresciuto così, tra l'immondizia e la strada. Erano furti e rapine la tua gioventù. Il tuo nome era Roger McClure. Hey ragazzo, attento a te, la faremo pagare. Gridarono gli uomini vestiti di blu. Sappiamo il tuo nome, sei Roger McClure. Selvaggio, cresciuto così, senza un consiglio, un rifugio, il figlio di tutti e di nessuno eri tu. Il tuo nome era Roger, Roger McClure, prelevato una notte, linciato laggiù. Il tuo nome era Roger, Roger McClure. Il tuo nome era Roger McClure. Rockwave, l'onda del rock. E questa era la storia di Roger McClure, una canzone di Massimo Bubola tratta da quello che è il suo ultimo album, Segreti Trasparenti. Bene, stavamo ragionando qui con Massimo che un'intervista così può andare avanti molto a lungo, ma sì, anche perché in effetti nelle tue canzoni ci sono tante cose. Sì, sì. Io, grazie molto. Noi presentiamo molto spesso degli album completi, no? Sì. Sicuramente gli ascoltatori se ne saranno accorti. A volte ci sono tante cose da dire su un album. Altre sì. volte, anche se un disco può essere pure piacevole da ascoltare, non c'è molto da dire. Si possono andare ad ascoltarlo perché più della superficie non c'è. Ecco. Invece qui appunto su ogni canzone avremo spunti per parlare per mezz'ora, insomma. Penso che comunque gli ascoltatori possano essersi fatti un'idea abbastanza precisa, spero, del contenuto sì. di questo album e soprattutto del modo in cui lo hai partorito. Sì. Ora se uso questo termine, sì. ma mi dà l'impressione proprio concepito, di sì, ecco, concepito è più giusto. Hai avuto difficoltà? È stata difficoltà questo parto? No, no, io in realtà scrivevo sempre più canzoni, no? Come insomma, ho imparato i miei maestri, insomma, cioè scriviamo di scrivere magari 20 canzoni, poi ne teniamo meno. Come dicevamo prima, la prima parte del disco la scegliamo noi, la seconda parte la sceglie lui per te, no? Quindi è stato un lavoro un po' lungo in studio perché sono un po' meticoloso, sono un po' pignolo, invecchiando, insomma. Si sente ascoltando il disco poi. È stato molto curato. Poi direi che l'apporto insomma, di Michele Gazzi è stato importante perché lui è anche una persona molto paziente, molto accurata. Anche insomma, è importante quando si sta in studio, quindi è come stare in una vetrina spaziale. Essere molto tolleranti, no? Perché abbiamo usato un fonico molto giovane e quindi ogni tanto ci dà qualche problema, insomma, però riuscivamo abbastanza a gestire le cose bene. Poi io insomma, ho tante esperienze perché ho prodotto tanti dischi, ne ho fatti tanti, però è vero che abbiamo delle esigenze anche al di là di quello che si sente, no? Perché io a volte sento dischi che sento che sono prodotti magari un po' in maniera affrettata e vedo che pochi se ne accorgono, no? Quello che dicevamo prima, no? Che noi siamo dischi di durata, no? Le cose per durare devono essere fatte in maniera accurata. Un scarpone da montagna per durare 20 anni deve essere cucito a mano, seguito bene, no? Oggi abbiamo una cultura più del consumo. Beh, adesso si parla sempre dell'industria discografica, direi che nel vostro caso sarebbe più corretto parlare di artigianato discografico. Cioè cose fatte... Sì, ma anche l'industria discografica ormai sta diventando un po' meno di un'industria, che ormai non... stanno più in piedi. Hanno le pezze. Almeno in Italia no, si hanno le famose pezze laggiù nella zona. Io penso che sia comunque un prodotto artistico, debba essere comunque un prodotto artigianale. E quando io leggo le interviste con Martin Scorsese, con i registi che amo di più, vedi che anche loro hanno una cura artigianale, no? E seguono anche le locandine, tutto l'aspetto anche di grafico, no? E questo è un lavoro che deve fare un regista fino in fondo, no? E se pensavo a Stanley Kubrick, addirittura era maniacale, andava a controllare addirittura il cinema dove proiettavano i film. È importante, secondo me, mantenere questo patto con la gente, di dare il meglio di sé, di curare di più le cose. È chiaro che per dirti, fare anche un super audio così è molto, un disco molto costoso, questo di base, no? Quindi per noi è impegnativo, e non ce l'ha ordinato il medico. Potevamo comunque fare un CD normale che suonava comunque bene, masterizzato molto bene, però abbiamo cercato di fare ancora di più. E secondo me questo è un disco che ribadisce un po' un ruolo della canzone d'autore ancora, che è quella che pone delle questioni importanti per la società, perché purtroppo la poesia italiana è un po' latitante, no? È una poesia a volte più legata ai salotti, ai cicli letterari, un po' più autoreferenziale, quindi a volte la canzone d'autore deve superare il bisogno di poeticità che c'è nella gente. E quindi è stato importante, poi in un momento come questo, che sono scomparsi grandi scrittori di canzoni come De André, Gaber e altri, è importante ribadire il ruolo, insomma, della scrittura di un certo, sì, tipo. Alcuni sono ancora vivi, ma dal punto di vista artistico sono messi peggio di quelli qualcuno che hai citato. Qualcuno un po' stanco, sì, poco propositivo, sì. Bene, noi il tempo vola qua, sì, sì. Come ci siamo accorti un po' tutti, che in effetti non mi ero accorto che fosse già così tardi. Sì, effettivamente il tempo è passato velocemente, soprattutto nell'ascolto di quelle che sono state le parole molto importanti dette da Massimo Bubola nel corso di questa intervista concerto. Comunque non finiamo ancora qua, abbiamo Stefano. Abbiamo tempo per un'ultima canzone. Abbiamo tempo ancora, sì. Hai qualche richiesta, no? Ma noi lasciamo... Beh. Non fare, visto che mi hanno lasciato il cielo di Irlanda, ve la suoniamo. Ah, benissimo, benissimo. Sicuramente è sempre gradita poi, da tutti, anche perché è un pezzo molto gioioso, un pezzo che mette... Sì, questa è una canzone che avevo scritto tra l'altro 10 anni prima che la cantasse Fiorella, no? A proposito dei pezzi. E io non ho mai capito, faccio fatica a capire cosa penso io, quindi non ho mai pensato a scrivere cose per gli altri, no? Perché è difficile capire cosa pensano gli altri. Penso che... Ma Fiorella l'ha amata subito questa canzone? Sì, sì, però appunto l'avevo scritta tanto tempo prima, e quando ho visto lei che, insomma, che è rossa di capelli e che ha gli occhi chiari, ho detto: ma se vai in Irlanda ti offrono una Guinness subito. E non sei convinta, l'ha fatta. Veloce, il cielo d'Irlanda, i tuoi occhi, se guardi lassù, e nega di verde, ti copre di blu, blu, ti copre di verde, e ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschi di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, ubriaca di stelle, di notte e il mattino è leggero, ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Da Donegal alle isole, Ara, e da Dublino fino a Connemara, dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te. Cielo d'Irlanda è dentro di te. Cielo d'Irlanda è un enorme cappello di pioggia, il cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sulla spiaggia, il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, ad un momento i colori li fa brillare più del vero, a dopo un momento ci fa brillare più del vero. Dice l'Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore. Dice l'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Dice l'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, ci apre e ci chiude col ritmo della musica. Ci apre e ci chiude nel tempo della musica. Canta di galla alle isole Ara e da Dublino fino a Connemara. Dopo che tu sia ballando con Zingari il re, il cielo d'Irlanda si muove con te. Il cielo d'Irlanda è dentro. Qua quale migliore fine, non c'era neanche bisogno di dire finale. Il titolo di questa canzone, no, assolutamente, che conoscono anche i muri veramente. E, prima di salutare Massimo volevo ricordare un altro appuntamento per lunedì prossimo. Sempre in questi studi avremo un gruppo I Grey, che fra l'altro è stato prodotto da Giulio Casale. Quindi tu hai prodotto il primo disco degli Extra, adesso sì, Giulio a sua volta Genesi ha cominciato a fare produttore. Insomma è una storia che si ripete, come giusto che sia. Un gruppo molto, molto valido, fra l'altro saranno nei nostri studi lunedì sera alle 22, quindi rinnovo l'appuntamento con i nostri ascoltatori. Sì, volevo ricordare un'ultima cosa: domani ci sarà un altro gruppo che viene a suonare, si chiama Renoir, sono di Venezia, e sono un gruppo giovane, c'è sempre qualcosa da sentire. Hanno un bel nome, vero? Sì, sì. Sicuramente. Allora, siamo alla conclusione di questa trasmissione, non abbiamo parole per ringraziare Massimo Bubola per la sua gentilezza, per la sua partecipazione e per il suo coinvolgimento in questo nostro piccolo intrattenimento, e naturalmente anche Michele Gazic, benvenuto nei nostri studi con questo magnifico violino. È incredibile come due semplici strumenti acustici possano creare un suono ricco, pieno di sfumature, come una piccola orchestra. Questo forse è il segreto della musica folk, nel senso tradizionale. Ci siano delle canzoni che è bello suonare così, è bello suonare poi con una grande band, ma una buona canzone si può, insomma, viene sempre bene. Vi ringrazio poi dello spazio, che insomma è piacevole riuscire a dire anche delle cose, e di questa vostra insomma disponibilità anche a far conoscere questo vostro programma di rock, prima, che è interessantissimo, di diffondere quello che è la musica, insomma, così più importante, e quindi che in quel senso qua voi siete un po' in controtendenza rispetto a tante radio italiane, però siete una radio civile che fa un lavoro di informazione, e questo qua è il primo scopo che ha, credo, una radio, di informare i ragazzi che c'è tanta musica buona, perché quando noi avevamo 20 anni conoscevamo 200 gruppi e avevamo 3 radio, certo. Adesso hanno 300 radio e conoscono 2 gruppi, no? Verissimo, questa è una cosa verissima. È importante continuare così a far diffusione. Questo potremmo fare uno stacchetto, Flavio, essere il nostro nuovo slogan. Assolutamente. Comunque il nostro stacchetto di base dice di radio, la radio di tutti, nel senso che inseriamo tutta la musica proprio per tutti, quindi sia anche la pop tradizionale, quella super ascoltata, però offrendo anche molti spazi a quelli che sono questi programmi che a noi danno assolutamente molto. Grazie ancora a tutti. Grazie a te, buonasera. Massimo, della disponibilità. Siamo giunti alla fine, la traccia numero 4 per concludere. Stai con me, l'ultimo estratto dall'album Segreti Trasparenti. Vi ricordo, in tutti i negozi di dischi, come ha detto prima Massimo, a prezzo, adesso non so quanto sia, comunque hanno cercato venderlo a un prezzo ragionevole, nonostante la cura eccelsa della confezione, abbiamo detto la confezione in cartone, che è molto più bella e non si rompe quando cade. Questa è una cosa che chi trasmette in radio sa bene, perché si portano i CD su e giù. Sì. Un libretto ricchissimo con i testi anche tradotti in inglese, con una stampa da, da libro e non... Sì, poi da... la possibilità di ascoltare anche in super audio, quindi di avere due letture del disco. E appunto anche quel discorso lì, che significa che il disco andrà bene anche con i CD, con gli impianti che ci rifilerà l'industria elettronica fra 5 anni, chiedendoci di buttare via quelli che abbiamo adesso. Ah, bene. Molto bene. Quindi beh, succederà, è così che anche questo. Siamo bene. Pronti a questi nuovi cambiamenti, okay. Anche diciamo elettronicamente parlando. Allora, vi lasciamo, carissimi ascoltatori di D-Radio, con l'ultima canzone appunto di Massimo Bubola, tratta dall'album Segreti Trasparenti, da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, Stefano Dainese e poi ancora Massimo Bubola, e sì. Michele Gazic. Una grande buonanotte a tutti, e sempre grazie, con D-Radio e sempre con Rockaway. Grazie a voi. Grazie a voi. Quando il sole scende, stai con me. Quando la luna si accende, stai con me. Quando le stelle cadono e tu ti chiedi perché, tutto diventa cenere, stai con me. Con quel bimbo che hai perso, stai con me. Sorella del silenzio, stai con me. Quando le tue pagine non si leggono più, quando le tue lacrime non si vedono più, dentro quelle foto stai con me. Dentro il mio cappotto stai con me. Anche così ferita stai con me. Quando le parole non servono più e le spiegazioni ti buttano giù, quando i miei peccati tu non ricorderai più e i suoi torti i meriti conteranno di più. Davanti a questo specchio stai con me. Questo specchio vecchio, stai con me. Anche se mi hai tradito, stai con me. fiamme, stai con me. In questo fine inverno, stai con me. Quando nella notte fa freddo, sempre di più, e i sogni sono chilometri e non ti ritrovi più. Quando nella notte il vento urla sempre di più, abbracciati ai miei fianchi e stai. Il rock di Radio.